generazione di innocenti la mia, non preparate l'agguato feroce della neofilia, accerchiati, aggrediti, disarmati, indifesi dalla pubblicità, affogati nel caos di ipermercati e paesaggi anemici, generazione transitoria la mia, a cavallo del tempo, tra le lettere a penna e i messaggini tra passato e foschia, scaraventati in questo limbo, tra progresso e nostalgia, generazione condannata la mia, da donne feroci, fredde e spietate, senza allegria, umilianti, scostanti, pezzose, superbe, senza umiltà. Noi costretti all'espatrio a cercare compagni, sogni fugaci, generazione allontanata la mia, fucilata alle spalle dalle leggi razziali del progresso femminista, cieco di anarchia, hanno sconvolto il nostro mondo per la loro gerarchia. Generazione maledetta la mia, cercare l'amore, trovare soltanto pornografia, trattati da amici, tassisti e servetti della ginecrazia. Generazione maledetta la mia, ingabbiata in locali plastificati di ogni idiozia, tenuta a distanza per moda, lesbismo, per omofobia. Senza pelle la mia, senza più una casa, un tempio personale, senza autonomia, senza più rispetto e considerazione, senza ammirazione, senza figli da educare, cognome da donare, senza dinastia, generazione in estinzione la mia, sterilizzata, umiliata dal nuovo ruolo marginale di ogni uomo nel sociale, così sia, hanno sconvolto il nostro mondo, hanno castrato ogni via, generazione senza palle la mia, senza più sommosse né rivoluzioni, senza un'utopia, senza più fucili né forche da impugnare, senza l'arditismo e fantasia per annientare parassiti e bugie, generazione senza sangue la mia, adagiata al potere, lobotomizzata, drogata, alcolista, acculturata, senza follia, per rovesciare il losco impero, la parlamentocrazia. Generazione maledetta la mia, dall'inganno che al popolo corrisponda davvero la democrazia, le mansioni corrotte, le palazzi teatri della ladrocrazia. Generazione maledetta la mia, dal supposto che il popolo non possa annientare ogni oligarchia.